Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Inaspettatamente mi trovo travolto da una valanga di decibel, per cui mi viene istantaneo portare le mani alle orecchie. E proprio in quel momento, alzando gli occhi, vedo davanti a me quella donna. Quello stesso viso di donna che avevo sognato 4 mesi prima. Mi chiamo Carlo, sono di Bologna, ho 53 anni, tra pochi mesi. Ho 2 bambini molto carini, vivo con, dico mia moglie, anche se non siamo sposati, ma viviamo assieme da 12 anni. Carlo, direi che è uno dei primi papà che nella presentazione non dice ho 2 bambini meravigliosi che sono la mia vita, ma dice ho 2 bambini carini. No, non per questo. Paolino Corleone mi ha già detto che l'ha tagliato, dice, c'era ma l'ha tagliato. Però mi piace immaginare comunque che Carlo abbia questa visione anche così un po' giustamente distaccata, no? Per cui sono tanto carini, ma sono anche sicuramente meravigliosi. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24. Il programma si chiama Voi siete qui. La storia che raccontiamo oggi è la storia di Carlo. E non parla di bambini carini o meravigliosi che siano. Parla di, direi, sogni premonitori, anche se quello di cui parla Carlo ha quasi più a che fare col soprannaturale, che è un argomento che non abbiamo mai toccato, l'argomento del soprannaturale, qualcosa di strano che accade. C'era la storia dell'architetto di Genova e della mamma di un cadavere, la polizia, sì, è vero, era più un giallo, però quello più noir, direi. Qua invece si parla soprannaturale, no, ma si parla di sogni che ti raccontano qualcosa che non capisci lì per lì e che poi rivedi mesi dopo. Forse alcuni li chiamerebbero déjà vu, non lo so, forse un déjà vu, o forse, però mi piace sogni che ti raccontano qualcosa. 349-238-6666 è il numero per mandare un sms se ci avete voglia, se non ci avete voglia lasciate stare, ascoltate, o altrimenti se avete un profilo Facebook davanti, aperto, Voi siete qui, Radio 24. Mario, ad esempio, mi ha già scritto sul nostro profilo: da ragazzino ho sognato che avrei passato l'esame delle scuole medie parlando a testa in giù davanti alla commissione. Cercai di capirne il significato, ma non ne trassi nulla. Ora nella vita faccio il giocoliere e alla scuola di circo l'esame l'ho passato grazie alla mia perizia con le verticali. Può avere qualcosa a che fare uno che fa un esame a testa in giù. Però spesso i sogni riguardano il proprio lavoro. Per esempio, un sogno ricorrente degli attori, però è un sogno ricorrente, è diverso. E se speri che non ti capiti mai, è quello di fare il vuoto di scena, cioè che tu sei a casa tua o in camerino, ti vengono a chiamare e ti dico oh, tocca a te, e quindi tu hai l'idea che c'è un sacco di gente davanti a un palco e tu sei nel momento sbagliato, nel momento giusto ma al posto sbagliato. Però ripeto, non ha a che fare con i sogni premonitori. Alessandro: ho sognato che giocavo nella mia squadra del cuore e vincevamo con un rigore segnato da me una partita molto importante. Questo è il sogno. Nel 2006 ho visto la finale Italia-Francia in Germania e quando Fabio Grosso ha segnato quel rigore mi sono accorto che anche io avevo sempre giocato con la maglia numero 3. Questo è un po' campato per aria, però mi piace comunque. L'ultimo messaggio, Pier Mario: ho sognato che la donna della mia vita era una donna di colore, anche se non potrei dire che faccia avesse. Anni dopo ho sposato una donna dominicana. Ecco, più o meno una roba del genere. Se avete fatto un sogno che aveva un'immagine molto chiara, che però non conoscevate, e qualche anno dopo, qualche tempo dopo, nella vita reale quella immagine vi è tornata, 349-238-6666. Questa qui è la storia di Carlo. 1983. Io sono un 23enne di Bologna quasi centro, senza tanti problemi, calato perfettamente nel secondo boom economico del nostro Novecento. Lavoro da 4 anni. I miei non stanno niente male economicamente, ma mi hanno sempre tenuto a stecchetto. Per cui, dato che mi piacciono vestiti alla moda, dischi a volontà, specialmente Genesis e G-Trotal, vacanze mare e monti, lo stipendio tutto per me da sputtanarmi mi sembra l'ideale. E così è. Avevo fatto la maturità nel 79 e a settembre di quello stesso anno lavoravo già. Ma solo nell'80, in un casuale giro diurno nella zona universitaria, avevo fatto caso, assieme a un mio amico, a quanta gnocca circolasse per quelle vie. Da qui la quasi immediata iscrizione all'università, Scienze Politiche. Versione serale, assieme ad altri due miei amici, fondamentalmente per cercare di entrare come parte attiva in tutto quel ben di Dio. E così è stato. In quegli anni esistevano i corsi serali universitari, quindi io di giorno lavoravo in un magazzino all'ingrosso nelle vicinanze di Bologna e poi la sera dalle 5:30 cominciavano i corsi serali, si protraevano addirittura fino alle 23 e quindi mi catapultavo da un mondo all'altro, che era un piacere, insomma. Tutti i tardi pomeriggi fino alle 10 di sera, dopo il lavoro, eravamo catapultati in tutto un altro mondo, fatto di collettivi, di gruppi di studio a casa di studentesse, naturalmente non di Bologna, e esami burla. All'epoca davvero si studiava pochissimo e i 30 volavano, che era un piacere. Giuro che io presi un 30 in dottrina dello Stato, rispondendo all'unica domanda: titolo del libro sul quale ha studiato e nome dell'autore. E giuro anche che una mia amica alla stessa domanda ha cannato il nome dell'autore e si è accontentata di un 26. Tutto davvero procedeva senza troppi problemi, quindi tutte le mie funzioni vitali, sonno compreso, erano ottimali. Insomma, stavo bene ed ero in gran forma. Fu per questo che probabilmente mi rimase impresso quello che mi successe una notte. Andò così. Mentre dormivo il sonno dei giusti, all'improvviso mi trovai a fare un balzo sul letto e a svegliarmi di soprassalto, cosa davvero inusuale per me. Tutto accadde in una notte, non ricordo se a febbraio o a marzo di quell'anno. Mi trovai di colpo seduto sul letto con le mani che si tenevano le orecchie, ma soprattutto con un viso di donna sconosciuta davanti agli occhi. Nel sogno avevo sentito un frastuono fortissimo, e da qui il mio risveglio immediato con le mani a protezione delle orecchie. Un frastuono però che era esistito solo nel sonno. Ci misi qualche minuto per riprendermi da questa cosa mai accadutami prima. Rimasi immobile a pensare a chi fosse quella donna così stampata ormai nella mia memoria. Poi la notte riprese tranquillamente, come tutta la mia vita. Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, we used to sing. Sha la la la la la la la la la la, just like that. Sha la la la la la la la la la la la la la la. Salto in avanti di 4 o 5 mesi. Insieme a uno dei miei due compari universitari decidiamo una vacanza in Olanda per poi scendere in Bretagna e arrivare a Parigi per il 14 di luglio, in modo da esserci nel giorno della festa nazionale francese. Un tour bello lungo, anche perché è fatto sulla mia nuova fiammante Fiat 1 Diesel. Tutto va alla grandissima. Rimaniamo estasiati dall'Olanda, un po' meno dalla Bretagna, ma il 13 siamo a Parigi per partecipare alle feste cittadine serali e notturne. Non so che cosa cavolo mangi a pranzo il mio amico. Morale, il pomeriggio lui è KO. Roba intestinale, non può muoversi dalla stanza dell'hotel. A me non va di stare a fare l'infermiere, né tantomeno di perdermi una Parigi in festa, per cui esco da solo. Parigi naturalmente è bellissima. Dopo quella volta ci sarò tornato altre 30 volte e quasi sempre per lavoro. E per me tuttora è un privilegio andarci e godermela. Bologna si sta bene, io sono un bolognese doc, ma a Parigi ci vivrei domani stesso. Forse è da quella mia prima volta parigina in cui mi sono trovato in giro da solo, che mi fa impazzire fare chilometri e chilometri a piedi senza una meta, con la bellezza di scoprire o rivedere cose, angoli e negozi. Parigi mi è sempre piaciuta moltissimo, perché ad ogni angolo riserva sempre una sorpresa. Mi piacque la prima volta, ma tuttora, quando ci vado, ci vado sovente, e mi sembra di vedere sempre angoli nuovi, cose, situazioni nuove. È una città che vivo molto molto bene. In questo mio primo tour parigino serale, a un certo punto capito nelle vicinanze di Notre Dame. Per arrivare all'Île de la Cité devo solo attraversare Pont Neuf, ma vengo attratto da una delle tante feste organizzate in quella sera. Sento da lontano la musica di un'orchestrina e vedo luci e gente che balla proprio nelle vicinanze del ponte. Mi avvicino e vedo che per risparmiare strada possa entrare in questa ricavata balera anche senza passare dall'ingresso principale, passando sotto un'impalcatura. Non mi accorgo che il passaggio era posizionato però proprio sotto a una cassa acustica enorme, che naturalmente emetteva la musica verso chi ballava all'interno dell'area. Insomma, passo sotto questo mini tunnel e appena al di là mi trovo proprio davanti alla cassa, che quindi rimane alle mie spalle. È naturale che tutto in una volta mi trovi inaspettatamente travolto da una valanga di decibel, per cui mi viene istantaneo portare le mani all'orecchio a protezione. E proprio in quel momento, alzando gli occhi, vedo davanti a me quella donna. Quello stesso viso di donna che avevo sognato 4 mesi prima, proprio nel momento in cui, come in quella notte, ho le mani che cercano di proteggere i timpani. È davvero inutile cercare di descrivere il mio sconcerto di quel momento. Ci metto forse un minuto, ma in quei frangenti un minuto è lunghissimo. Un minuto per riprendermi, per cercare una risposta. Poi la foga nel cercare quella donna che intanto non era più davanti a me e che naturalmente non mi aveva cagato di striscio. La cerco, la ritrovo mentre insegue i suoi 2 bambini piccoli che si stanno divertendo in mezzo alla festa. Io mi metto di lato, la guardo. Cerco di capire se la conosco o se l'ho conosciuta. Poi sento che lei chiama i bambini. È francese, naturalmente. Un altro minuto e lei si avvicina al marito, un tipo tranquillo, che beve una birra in manica di camicia. La abbraccia, chiama i bambini e se ne vanno dalla festa. E io ancora lì, appoggiato a qualche cosa, a cercare di capire com'era stato possibile tutto questo. Ho provato a leggere qualcosa riguardo dei déjà vu, ma alla fine tante idee e molto confuse. Oggi io ho 52 anni, di cose nella vita me ne sono accadute parecchie e a tutte ho cercato di dare una risposta, giusta o sbagliata che fosse. Questa non sono mai riuscito a catalogarla. Ed è per questo motivo che dopo 30 anni la vivo come se fosse accaduta ieri e mi piace raccontarla a tutti voi, a tutti noi. Hey, open the door. I want a new life. I think I'm really being sincere. I want a new life, a new life with you. 349-238-6666. Arrivano messaggi che non hanno molto a che fare con queste sorte di sogni premonitori, così li abbiamo più o meno chiamati, simili a quelli di Carlo, in cui vedi una cosa che poi sogni una cosa che poi ti riappare più avanti nel tempo o nella tua vita. Alessandro mi scrive: ho sognato che mi sposavo con mia sorella e che la mia fidanzata era la nostra testimone. Quando poi ci siamo sposati, io e la mia fidanzata, mia sorella è stata la mia testimone, ma non so se questo vale. No, Alessandro, credo che questo non valga, a proposito di sogni premonitori. Vale sicuramente però quello di Carlo, che una notte ha visto il viso di una donna e poi l'ha visto, quello stesso viso, dal vivo realmente, una notte a Parigi. Pronto Carlo? Sono qua, ciao. Ciao, come stai? Molto bene, che cosa al lavoro. Cosa stai facendo Carlo? Ma si sta guardando articoli, facciamo articoli da bambino, produzione abbigliamento da bambino, e stiamo scegliendo quali mandare in Cina da produrre e quali no. E dove ti trovi esattamente? A Napoli. Ma tu non sei di Napoli però, sei di Bologna? No, io sono di Bologna, sono bolognese proprio puro sangue, comunque per lavoro sono spessissimo a Napoli. Ma mi dici esattamente che lavoro fai, cioè qual è il tuo ruolo? Ma guarda, tendenzialmente tutto quello che concerne il commerciale, tutto quello che concerne il discorso dei modelli da mandare avanti, la ricerca, insomma, okay. Diciamo così, un lavoro a 360 gradi nell'abbigliamento bambino. Esatto, però l'ambiente è abbigliamento bambino, insomma. Sì. E comunque, voglio dire, sembra facile dirsi, ma insomma, un po' problematico sia naturalmente per situazioni di mercato contingenti attuali, sia per quanto riguarda l'evoluzione proprio dei gusti dei bambini, delle mamme e dei bambini. Mamme. Infatti volevo chiederti, scusami, decidono ovviamente le mamme, quindi che cosa va l'anno prossimo per il bambino? Ma guarda, si parla ancora tanto di perché dire cosa andrà, però guarda, con il militare in questo momento tutto quello che è il mimetico, il verde militare, gli accessori militari continua ancora per bambini. Sì. Ok, va bene. Torniamo invece a quei 30, quella notte di 30 anni fa, Carlo, quella in cui, certo, io direi, partiamo da prima, quella notte ancora prima, quando hai fatto quel sogno. Cioè, tu a un certo punto ti svegli, ma ti ricordi di aver sentito un rumore o semplicemente ti accorgi che hai le mani sulle No, io ho sentito un rumore dentro di me, naturalmente. Nel sogno, certo. Nel sogno un rumore pazzesco che mi fa tenere le orecchie, tant'è che mi ha fatto sobbalzare sul letto, cosa, ripeto, per me è molto inusuale, ecco, e quindi è per quello che mi è rimasto impresso questa cosa. Certo, sei stato uno da incubi notturni, allora magari non mi sarebbe neanche impresso, però questa cosa di svegliarmi di notte con questo rumore incredibile nelle orecchie e nel momento che così che sobbalzo dal letto, così davanti a me un'immagine proprio di questo volto, di un volto femminile, insomma, mi lasciò così, ecco. Certo. Poi dopo naturalmente mi sono rilembrato e fino a quando quel volto femminile non mi è riapparso a Parigi mesi dopo, non ci pensavo neanche più. Perché scusa, tu quando ti svegli col volto di questa donna davanti, chiaramente fai mente locale sul fatto se tra le persone che conosci c'è quel volto, giusto? E ci pensi per qualche giorno? Totalmente sconosciuta, certo. Quindi tu ci pensi, cioè sto cercando di immaginare la dinamica, tu per qualche giorno ci pensi, provi magari, certo, a immaginare, boh, magari è quella con i capelli lunghi o i capelli corti, e ti accorgi che non è nessuna. Poi ti dimentichi di questa cosa, giusto? Sì, a un certo punto. Praticamente lo metto nel cassetto delle cose che sono capitate. Questo per dire che quando tu una notte, di mesi dopo, in una città sconosciuta, vedi una donna e la prima cosa che ti viene in mente è quel sogno, vuol dire che è veramente lo stesso volto. No, è proprio quello, cioè proprio è stato un tuffo al cuore, veramente è stato un momento, chiamarlo di panico probabilmente dire troppo, però un momento in cui veramente ti chiedi cosa sta succedendo. Cioè, o sono in una puntata di Lost, oppure c'è qualcosa di strano. Il problema è che 30 anni fa magari non c'era ancora. Non lo sapevi. Poi anche nella dinamica, cioè nel momento stesso in cui sento questo rumore nelle orecchie che mi aveva fatto. Sì, certo. Cioè, la situazione è la stessa del sogno. Ne hai parlato con qualcuno? Tu, no, Carlo? Sinceramente no. Ho aspettato Matteo per parlarne 30 anni dopo. Ah, proprio non hai mai parlato nemmeno con un amico di questa cosa? No, ma sì, no, beh, vabbè, anche con mia moglie, cioè a livello così di delle chiacchierate che capitano intorno a un tavolo, però fine lì, ecco, quando dicevi qualcuno pensavo qualcuno bravo, qualcuno bravo. No, qualcuno in generale. E non hai avuto la spinta o il desiderio di andare a conoscerla quella notte, quella signora? Guarda, donna, ti ripeto, è stato veramente un momento scioccante, ho solo cercato di capire così chi era, cioè, così l'ho seguita per un pochettino all'interno di questa pseudo balera che si era creata quella notte di festa a Parigi, e proprio una donna normalissima che stava seguendo i suoi bambini piccoli con suo marito nelle vicinanze che beveva una birra. Che stava bevendo una birra, sì. Cioè, capito? Cioè, fatto una situazione normalissima, hai capito? Ed è rientrata immediatamente in una di quelle cose inspiegabili, tant'è che sinceramente non aveva neanche senso a quel punto. Ma tu, secondo me, quando dici che sei una persona che cerca di dare delle risposte a tutte, no? Giuste o sbagliate, vuol dire che sei uno che cerca di razionalizzare e quindi di dare un ordine a tutte le cose, questo intendi dire? Ok, questa rimane di fatto una roba senza spiegazione, senza un significato. Sicuramente rimane una cosa per me e secondo me non c'è, cioè, se questo, vogliamo andare a trovare delle cose razionali non c'è. Questo in realtà Carlo, tu hai 52 anni, giusto? Sì. Ancora ne hai davanti di anni, chi lo sa che magari a un certo punto tutto ritorni veramente come una puntata di Lost. Dimmi l'ultima cosa, poi ti saluto. Tua moglie cosa dice di questa cosa? Ma guarda, niente. Ti ripeto, c'è stato magari capitato di parlarne così, ma neanche niente di particolare, cioè, sai, le cose che rientrano fra le cose che capito, ogni tanto senti qualche cosa più strano, sai, quello è capitato, sì, senza una spiegazione, ecco, le metti lì, però insomma quantomeno è particolare, indubbiamente, che capita una cosa di questo Carlo genere. Ti ringrazio e ti lascio tornare alla moda bimbo per il prossimo anno. Grazie ancora. Grazie, complimenti, ciao, buona giornata, grazie. Voi siete qui Voi siete qui. È insieme ai suoi due bambini, Carlo, nella foto che ci ha mandato e che è pubblicata come tutti i giorni sul nostro sito di Radio 24 alla pagina di Voi Siete Qui. Manco a dirlo, ovviamente, con i suoi due splendidi bambini che Paolino ha tagliato e ha ridotto a carini. Carlo ha una maglietta bianca a maniche lunghe, sono in casa, anche una barba bianca, non a maniche lunghe, però parecchio bianca, lo facevo più giovane. Carlo, i bambini invece sono, non so, avranno, non saprei dire l'età dei bambini, avrà 6 anni uno e 3 anni l'altro, e Carlo sta facendo però una cosa tenerissima. Secondo me questa foto l'ha fatta la moglie o la compagna per poi fargliela vedere in futuro, cioè lui non sta guardando la macchina fotografica e sta vestendo i propri bambini. Visione, sostantivo femminile. Percezione degli stimoli luminosi. A proposito di spettacoli cinematografici, proiezione, presentazione al pubblico. Estensivo, idea, concetto, quadro. Apparizione miracolosa o frutto di allucinazione mentale. Estensivo, spettacolo di incomparabile bellezza o particolarmente impressionante. Etimo, dal latino visio visionis, derivato di visus, participio passato di videre, vedere, data secolo XIV. Vi ricordate un film in cui si parlava di sogni? Era una sorta di accavallamento continuo di sogni, per cui non capivi mai se i protagonisti stavano vivendo un sogno o la realtà. E per capire se era nel sogno o nella realtà, il protagonista faceva questo. Vabbè, questa l'abbiamo fatta noi malamente con una moneta, nel film invece era una trottolina. Il film si intitola ancora Inception e più o meno diceva così. Chi sono le persone? Proiezioni del mio subconscio. Del tuo? Siamo nel tuo sogno, tu costruisci questo mondo. Io sono il soggetto, è la mia mente che lo popola. Puoi letteralmente parlare al mio subconscio, è uno dei modi in cui estraiamo dal soggetto le informazioni. E come altro lo fa? Leonardo DiCaprio è il protagonista del film e il film è proprio una sequela continua di sogno e controsogno. Un sogno all'interno del sogno, un sogno all'interno dell'altro sogno. Loro lo facevano, era una sorta di thriller del sogno. Lo facevano per andare a inculcare un'idea nella testa di un tizio e lo facevano attraverso appunto il sonno e la veglia. Se non l'avete visto, correte a vederlo. Mi ricordava prima Tiziano giustamente che qualcuno è un folle. Se cercate Inception Map su Google trovate questa specie di infografica, direi, in cui si vedono tutti i livelli dei sogni. Questo è uno di quei film che quando lo puoi vedere veramente rivedere 4-5 volte e ogni volta godi perché questa cosa qua, quindi qua era il sogno. 349-238-6666. Serena, sembra stregoneria, ma mi è successa davvero, mi scrive Serena. Ho sognato di fare un incidente in auto e quando cercavo di uscire la cintura non si sganciava. Da quel giorno ho messo un coltellino svizzero nel cassettino del cruscotto e quando ho fatto davvero un incidente, quel coltellino mi ha salvato la vita. Serena, non so se questa storia è vera, però è bellissima. Cioè, mi immagino te che la mattina quando ti svegli, dopo aver sognato di non riuscire a sganciare la cintura di sicurezza, dici, dai, abbiamo un coltellino in svizzero in giro. C'è sempre un coltellino svizzero in casa, da qualche parte, nei cassetti. Solo il protagonista di 127 ore non lo trova. Lo ricordate? Abbiamo solo che allunga la mano e non trova il coltellino svizzero. Ecco, adesso mi piacerebbe che tutti tenessero un coltellino svizzero nel cassettino della macchina. Così. Perché non si sa mai, nel dubbio, come scrisse qualche giorno fa un ascoltatore parlando d'altro, parlando se valeva o meno la pena uscire di notte e prendere la metropolitana, un paio di mesi fa, era un mese fa, se valeva la pena prendere la metropolitana o no per una ragazza, ma a certa ora di notte un ascoltatore scrisse nel dubbio stare a casa, ecco, nel dubbio mettiamo un coltellino svizzero all'interno del nostro cassettino. Sergio, ecco, questo è proprio il tipo di sogno romantico che mi aspettavo da una puntata così. Sergio, ho sognato di sposare la mia fidanzata e quando mi sono svegliato la mattina dopo le ho fatto la proposta di matrimonio. 349-238-6666. Vorrei leggervi una cosa che ha a che fare con altro in realtà. sapete, probabilmente se ascoltate questo programma conoscerete un po' il mio invaghimento verso l'illusionismo. Le persone che mi conoscono lo sanno e mi hanno regalato di recente un libro che si chiama I trucchi della mente, scienziati e illusionisti a confronto. Praticamente questi due scienziati dell'università di, università americana, uno di loro scrive anche per la parte scientifica del New York Times, hanno di fatto scritto un libro che loro definiscono, questo è il primo libro che parla di neuroscienza della magia, o se preferite di neuromagia, cioè come il nostro cervello agisce di fronte all'illusionismo, di fronte a una magia. Loro lo spiegano in diversi capitoli e uno di questi capitoli si intitola I trucchi della mente e secondo me in qualche modo parla anche dell'argomento di oggi. Le illusioni visive sono una dimostrazione palpabile del complicato intreccio di illusioni che il nostro cervello genera ad ogni istante e ad ogni livello della percezione, della coscienza e del pensiero. Le illusioni visive sono per definizione percezioni visive soggettive che non corrispondono alla realtà del mondo circostante. Chi sperimenta un'illusione visiva vede qualcosa che non c'è, o non vede qualcosa che c'è, o vede qualcosa di diverso da quello che c'è. Le percezioni contraddicono le proprietà fisiche di ciò che viene osservato. L'inquietante verità però è che il nostro cervello fabbrica la realtà visiva e non. Ciò che vediamo, udiamo, sentiamo, pensiamo si basa su ciò che ci aspettiamo di vedere, udire, sentire e pensare. E le nostre aspettative sono, a loro volta, basate sui nostri ricordi ed esperienze precedenti. Ciò che noi vediamo qui e ora è ciò che si è dimostrato utile in passato. Sappiamo che le ombre cadono in modo diverso a seconda dell'ora del giorno, che i volti hanno di solito una posizione verticale e che la gravità esercita una prevedibile influenza sulle cose. Quando queste predizioni vengono violate o il nostro cervello impiega più tempo per elaborare i dati, oppure ci concentriamo sulla violazione. Ma quando le cose vanno come devono andare, senza troppe sorprese, molto di ciò che ci accade intorno finisce per sfuggire al nostro sistema visivo. Come quando guidiamo fino a casa e ci accorgiamo di non ricordare nulla di quanto è accaduto fra la porta dell'ufficio e quella del garage. Una delle tesi principali di questo libro è che i processi cerebrali che danno origine alle illusioni percettive, alle reazioni automatiche e perfino alla coscienza stessa ci dicono essenzialmente chi siamo. Il mio sogno ricorrente, mi scrive Annalisa, era quello di volare. Quando ho fatto il mio primo volo in Aliante, quella sensazione la conoscevo già perfettamente, è stato incredibile. Il sogno ricorrente riguardo al volo è un sogno ricorrente credo per molte persone. Io ricordo che avevo un sogno che non è che volassi proprio, cioè o meglio volavo, cadevo, poi mi rialzavo. Vabbè, ma anche chi se ne frega dei miei sogni. Se volete riascoltare questa puntata e riascoltare tutte le puntate, avete a disposizione un podcast. Allora, visto che mia mamma ci è riuscita a scaricarlo, a tutti quelli che mi scrivono non riesco, col nuovo sito non ce la faccio, io direi due cose. Uno è chiamate mia mamma, però non posso farlo. La seconda cosa invece è sono sicuro che guardando un po' quella pagina lì davanti trovate qualche scritta da qualche parte, scarica oppure download, e in un modo o nell'altro riuscite a farlo. Tra l'altro col nuovo sito potete permettervi di non dover scaricare per forza tutto, ma potete ascoltarlo anche in streaming. Ermanno mi scrive: da ragazzino feci un sogno strano, ero seduto davanti al mare ed ero felice, non capivo però per cosa. 5 anni fa mi sono trasferito da Trento a Sant'Antioco in Sardegna e un giorno felice seduto davanti al mare ho capito il senso di quel sogno. Ecco, la storia di Ermanno è molto simile alla storia di Carlo, che ringrazio per averci mandato la sua di storia oggi, ma ringrazio anche Margherita Ina, che è sempre presente, Tiziano Bonini anche, e Paolino Corleoni pure. La storia di oggi, lo ripeto, era la storia di Carlo, e anche lui è un punto rosso su una mappa.